fermerò e ti fermerai. So che anche tu viaggi solo ormai, senza miti o dei, io ti accetterei, perché anche tu non ti illudi mai, è la vita che poi ci indicherà la migliore via alla felicità. Che cambia i venti e la marea, è la vita che va guidata un po', e io insieme a te, la migliore.